Ariete, gennaio. L'Ariete inizia l'anno sostenuto da un bellissimo Giove in prima casa. Il nato nel segno dell'Ariete potrà recuperare tutte le sue energie e dare finalmente un nuovo impulso a progetti e idee che da lungo attendevano nel cassetto. Venere effettuerà inoltre un sestile dall'acquario, rendendolo più morbido e diplomatico, e Marte dei Gemelli garantirà la grinta necessaria per portare tali progetti a termine. Mercurio riprenderà il moto diretto dal 18 di gennaio, sbloccando i dubbi e le incertezze che potrebbero averlo un po' rallentato nella prima parte del mese. Febbraio. Si consiglia di limitare gli spostamenti e cercare di concentrarsi al meglio nei progetti, senza lasciare spazio a dispersioni. Questo soprattutto per i nati nella terza decade, che vivono ancora gli effetti ostili del quadrato di Mercurio. Per fortuna, dal 20 del mese, anche Venere nel vostro segno vi aiuterà a sentirvi in armonia con voi stessi e con il prossimo. Marzo, in questo mese potrete avere cura di voi stessi e del cor vostro corpo e sentirvi apprezzati dalle persone che vi circondano. A marzo, anche i nati nella seconda e terza decade potranno godere della radianza venusiana. Inoltre, il passaggio di Saturno dall'acquario ai pesci segnerà l'inizio di un viaggio all'interno di voi stessi che porterete avanti con tenacia e sobrietà, come suggeriscono le caratteristiche del pianeta che entrerà nel vostro dodicesimo campo per rimanervi circa 3 anni. Inoltre, l'epocale passaggio di Plutone dal segno del Capricorno al segno dell'acquario, che porterà nuove sfide all'umanità, sarà per l'Ariete un riconnettersi al proprio potere personale e vivere il cambiamento come un passaggio costruttivo e potenzialmente benefico. Aprile. Ottimo inizio del mese per gli scambi e commerci. Inoltre, il passaggio di Venere nel secondo campo potrà favorire le attività di natura economica e donare saggezza e lungimiranza. Giove continuerà ad essere un faro che illumina il cammino, soprattutto per i nati nella seconda e terza decade. Le intuizioni gioviane saranno inoltre supportate dall'azione benefica di Mercurio, che vi aiuterà nell'espressione rendendovi degli ottimi oratori. Il 20 di aprile vi sarà un'importante eclissi totale di Sole in Toro nella vostra seconda casa, quindi attenzione alle finanze e rimandate di qualche giorno tutte le decisioni relative al benessere e alla stabilità economica. Maggio. Sfruttate al meglio gli ultimi lampi benefici di Giove, che il 17 del mese si sposterà nel segno del Toro. Inoltre, Marte dal Cancro potrebbe sovraccaricarvi di tensione non facile da gestire. Chiedete aiuto alla Venere in sestile, rimanendo connessi al vostro cuore per prendere decisioni importanti in modo coerente e saggio. Anche Mercurio vi è di sostegno nel vostro secondo campo per aiutarvi a consolidare i successi acquisiti nel primo trimestre dell'anno, in particolar modo dopo il 14 di maggio, da quando riprende il suo moto diretto, rendendo più fluida ed efficace la sua azione. Giugno. Avrete Marte dalla vostra che vi favorirà, dandovi le energie necessarie per portare a termine i vostri progetti. Inoltre, dal 4 del mese anche Venere si metterà in posizione a voi favorevole, aiutandovi con quel tocco di fascino che aumenterà il vostro carisma. Questi transiti benefici vi permetteranno di compensare il ritorno di Plutone in Capricorno, che soprattutto per i nati nella prima decade segneranno un senso di maggiore oppressione e facilità nell'incorrere in incomprensioni. Gli ultimi giorni del mese si consiglia cautela nelle comunicazioni, dato che Mercurio e Sole dal Cancro non facilitano né gli spostamenti né le nuove iniziative. Luglio. Luglio inizia ancora un po' tentennante, soprattutto per i nati nella terza decade, ma poi recupera bene nella seconda parte del mese. Il lavoro è sostenuto da Venere nel sesto campo e anche tutto ciò che riguarda la cura del corpo. Sicuramente riuscirete a concedervi qualche coccola in più del previsto, ricordandovi anche di voi stessi e delle vostre esigenze. L'11 luglio, Venere nel cielo inizia un percorso retrogrado che porterà i nati a riflettere sul modo di amare e in particolar modo, intorno al 23 di luglio, la congiunzione in retrogradazione di Venere con la Luna nera potrà far vivere dei momenti di particolare passione e trasgressione che potranno lasciare i nati nel segno un po' storditi dall'esperienza così forte e coinvolgente. Agosto, Marte e Mercurio vi sosterranno per buona parte del mese nella sesta casa, quindi lavoro e cura del vostro corpo saranno il must del mese. Inoltre potrete essere apprezzati da collaboratori e da sottoposti per le vostre idee e le vostre intuizioni. Venere dal quinto campo continua a favorire la passione e l'amore, in particolare per i nati nella terza decade. Gli ultimi 10 giorni del mese vedranno la congiunzione in cielo di Mercurio e Luna nera, quindi vi sentirete liberi di esprimervi senza troppi giri di parole. Avrete inoltre anche il sostegno del Sole che, effettuando un trigono dal Leone verso fine mese, vi aiuterà a essere chiari e compresi da tutti. settembre. Marte si insinua nella casa degli incontri, permettendovi di fare nuove conoscenze e portare chiarezza su vecchie incomprensioni del passato. Venere rimane nel quinto campo, aiutandovi nei rapporti con i figli per chi è genitore o nel favorire nuove passioni per chi è single. Dal 15 di settembre, Mercurio riprende il moto diretto dal vostro sesto campo, quindi potrete sentirvi più efficaci nel lavoro e mettere in pratica progetti rimasti un po' in stand-by nella prima parte del mese. Ottobre, il Sole in settima casa vi aiuterà a comprendere meglio le ragioni degli altri e accettarne anche le piccole incongruenze che spesso vi infastidiscono un pochino. Dal 18 ottobre, Venere in sesta casa vi aiuterà nella cura del corpo e vi permetterà di essere più diplomatici in contesti lavorativi. Dal 12 di ottobre, Marte nel vostro ottavo campo vi permetterà di gestire al meglio le vostre finanze e darà il giusto sprint alla passione. Nuovi incontri e nuove associazioni saranno coadiuvate dalla presenza di Venere in settima casa dopo il 20 di ottobre. Attenzione, intorno al 28, quando una difficile eclissi potrebbe scombinare un po' tutti i piani, facendovi rimettere in discussione gli obiettivi già dati per scontati. Novembre, la prima parte del mese, sarà l'insegna della passione e dell'approfondimento di nuove conoscenze. Dopo il 9 del mese potrete concentrarvi anche su nuovi studi o formazioni e si potrebbe presentare l'occasione per un viaggio, uno spostamento utile per la vostra crescita professionale, grazie a Mercurio che passa nel vostro nono campo. Venere nella settima vi renderà diplomatici e benvoluti dal vostro prossimo. Nell'ultima settimana del mese, con l'entrata di Marte in Sagittario, gli Arieti potranno godere di una spinta in più, di cui beneficeranno in particolare i nati nella prima decade. Dicembre. Fate attenzione alle vostre parole perché potreste essere facilmente fraintesi, dato Mercurio dissonante dal Capricorno. Soprattutto dopo il 13 del mese i vostri progetti potranno subire dei ritardi, dato che Mercurio si blocca nel suo moto retrogrado. Particolare attenzione la dovranno mantenere i nati della prima decade, gli altri saranno meno toccati da tale passaggio. Fortunatamente, gli ultimi 10 giorni del mese Mercurio tornerà a guidarvi nella giusta direzione con i suoi influssi benefici che dal Sagittario vi faranno recuperare la giusta direzione e la necessaria saggezza. Venere continua per tutto il mese ad accompagnare le vostre azioni con i bagliori di un fascino nuovo ed intenso che vi renderà efficaci e carismatici nelle vostre azioni e nelle vostre parole.